Buonasera, buonasera e benvenuti. Io sono stata allevata in un harem, in mezzo a donne di ogni età e condizione. Là dove sono cresciuta scorre l'oro, sui tavoli di cucina arrotolano i gioielli, noi invece che il tabacco, nelle cartine ci arrolliamo diamanti, smeraldi e ogni sorta di pietra preziosa. Affluente naturale dell'oro è un fiume di storie. Noi custodiamo negli stessi forzieri l'oro e le storie. E ci mettiamo mano volentieri. Din din din din din din din din din din din. Via culla si diedero convegno le fate. bella bambina, non faccio per dire, anche la mia nipotina. Questa è la Rina, non faccio per dire, parla sempre e solo della sua nipotina. Fine, questa bambina è molto fine. Ines, la telefonista, è un po' rude ma è sensibile. Questa è Teresina, una pitochina che vede tutto il mondo a forma di gallina. Che bisù! Questa è la nonna della mia amica Anna, la mia migliore amica. Lei sa fare tutto, sa zappare e cucinare, sa cucire e seminare. Bella anfasa pretampiosa. Come bella in fasce brutta in piazza! Questa è Rachel, la nonna di Laura Lanza, chiamata così per via di una sua connivenza col fascismo, era l'amante di un podestà. Comunque, se continuerete a fasciarla così, le verrà l'anchilosi dell'acca. Ma star zitta, Rachel, Carbonero, questa è la Maria di Adria, è venuta su con l'alluvione del Polesine. Primina, accetta questo regalo. L'ha fatta che mani mie. Questa è Carmelina. Non si è mai abituata al clima di qui. E certo no, una volta sei troppo coperta, la volta dopo sei poco coperta. Primina, guarda, questa copertina l'avevamo fatta per noi, ma poi a noi ce l'ha dato il maschio e per il Cesare francamente ci sembra un po' troppo frivola. Se non ti offendi, Grassi, dovete vedere con quanta dignità mia nonna accetta copertine, grassie, vestitini, grassie, calzine, grassie, scarpettine, grassie, bavaglini, grassie e soprattutto una montagna di cirpà, gli antenati dei pannolini. Alla fine, immancabile, la cerimonia del peso. La madrina... La madrina ha una bella medaglia, senti che peso! 3 catenine, 2 belle spesse, ma una per Mina, lasciatelo dire. I parenti di Torino non si sono spaccati. Pensai che tu quando gli è nato il nipote gli hai regalato una catena spessa così, l'avevi comprata da noi. E la Madonna gliel'hanno fatta, è certo. E Mina chiama la Madonna. Ci hanno regalato l'incoronata, l'assunta e l'addolorata. Se era un maschio ci chiamava il Cristo. Ah, e la croce non gliel'hanno fatta. Certo, proprio una bella croce. Adesso no, ma vedrete come la porterà volentieri da grande. 3 braccialettini con il nome tutti identici. È vero, Rachele, stavolta ti do ragione, ma Primina, non preoccuparti. Tieni quello che ti piace di più, gli altri me li dai, li faccio fondere e ti porto qualcosa in cambio. E qualche giorno dopo sarebbe arrivato lui, Ce l'abbiamo tutti. La medaglietta con l'angioletto, quello con la faccia paffuta, gli occhi lì su e la testa stretta fra le ali. Certo no, quello è l'angelo custode. L'angelo custode ci vuole. L'angelo custode ce l'hanno tutti. Niente di più bello per un bambino che addormentarsi al suono di tutte quelle voci di mamme, nonne, zie, parenti strette o alla lontana di qualcuno che è parente di qualcun altro. Si allontanarono tutte per lasciarmi dormire. Una però si fermò sulla soglia e tornò indietro e cominciò a raccontarmi qualche cosa. Per molto tempo io non mi ricordai che cosa mi aveva detto. Ricordavo soltanto vagamente che era qualcosa che aveva a che fare con l'oro. Caramora generò Canti, Canti generò Morosetti, Morosetti generò Melchiorre, Melchiorre generò... Quando mi doveva addormentare, mia nonna mi leggeva qualche cosa, a caso. Don Chisciotte, Famiglia Cristiana, Kim, il giornale del giorno prima, il piccolo principe, l'orafo Valenzano. E mia nonna credeva nel potere ipnotico della lettura. L'orafo Valenzano. La nascita di questo paese si perde nella notte dei tempi, così come si dice la ceramica di Deruta, la porcellana di Limoges, le antiche spade di Toledo, ignoranti, il vetro di, bravi, i pizzi di Cantula, ma c'è tanto però anche quelli lì, i fanghi di amano, ma in Italia di banco ce n'è tanto, vabbè, va bene tutto, ma l'oro di? Bravi, Valenza, l'antica città dell'oro. Antico ancora, bambino, ascolta qui. Ancora prima, ancora i primi dell'Ottocento, a Valenza era tanto signore, invece ce n'era uno, un certo Francesco Caramora. Il suo marchio, il punzone, erano le sue iniziali con una mezza luna in mezzo. A Valenza, bambina, mai avuto paura dell'Oriente. Quando questo Caramora muore, i suoi strumenti li compra all'asta un certo Piero Canti. Non costano molto, non ci vuole tanto allora come adesso a mettere su bottega a Valenza. Morale, per fare l'oro conta più la testa che l'attrezzatura. Quattro mura, quattro lire, un po' d'oro e quattro lavoranti, che presto rimangono tre, perché il più bravo si mette in proprio. Questo qui è Vincenzo Morosetti, marchio VM. VM, Vergine Maria, un cuore di Gesù in mezzo non fa una grezza. Il Morosetti ha un'idea straordinaria. Chiama il suo laboratorio Fabbrica. Fabbrica Orafa Vincenzo Morosetti, fabbrica un corno, un laboratorio come gli altri. Però in quell'epoca le fabbriche cominciano ad andare di moda. Sta bene sulla carta da lettere e mette coraggio, tutti ci credono. Morale, bambino, un po' di faccia tosta non guasta mai. Ben presto anche Morosetti ha quattro mura, quattro lire e quattro lavoranti che dopo aver appreso il mestiere lo lasceranno nella bagna per mettersi in proprio. Morale, bambina, se qualcuno ti lascia tu ricomincia. È così che Caramora generò Canti e Canti generò Morosetti. E Morosetti generò Melchiorre, Melchiorre generò... Buonanotte, amore mio. Il potere ipnotico della lettura funzionava soprattutto su mia nonna. Per molto tempo io non mi ricordai che cosa aveva detto. Mi ricordavo soltanto, ma vagamente, che era qualche cosa che aveva a che fare con l'oro. Qualche anno dopo, Laura! Lo sapevi che nei campi di concentramento nazisti si trovarono ingenti quantità d'oro sotto forma di mucchi di denti? Cesare ha 6 anni, sa già leggere e racconta soltanto storie trucide. A me e a Anna, la mia migliore amica, che non gli risponde mai. Anna è una che parla poco, anzi, diciamo la verità, non parla per niente, però c'è. Allora, questi tedeschi toglievano i denti ai poveri ebrei tra atroci dolori, poi cominciavano a urlare in tedesco, se non capivi ti vaporizzavano. Cesare, i nazisti erano acquartierati nella villa abbandonata, mia nonna faceva la cuoca ed era costretta a cucinare per loro, però poi la sera prendeva la carriola e portava la minestra ai partigiani. Tutte le sere minestra? Sì. E non poteva cucinare né qualcos'altro tua nonna ai partigiani? Non so, forse gli avevano tolto i denti e loro potevano mangiare solo quello. Ma va là, cretina, adesso i partigiani si fanno ricordare dai tedeschi. Guarda che mio papà è stato in campo di concentramento, tutte le notti si sveglia perché ancora adesso si sogna i tedeschi. E ancora tutti i denti tuo papà? Sì, però forse glieli hanno messi poi dopo. Chiediglielo, no? No! Non glielo chiedo, mio papà ha detto che non vuole più sentire e sapere né di tedeschi, né di partigiani, né di guerra, che esiste anche l'oblio, ma Anna! L'Anna era già andata a procurarmi un fazzoletto. Cesare! Cesare! Oh! La Silvana! La Silvana era più grande di noi ed era bellissima e io l'amavo. Cesare, ma è proprio vero che il tuo angelo custode è uguale al mio angelo custode? Certo, no? Ce l'hanno regalati a tutti uguali e l'ha fatto mio papà con lo stampo. Sì, ma Cesare, io volevo sapere se il tuo angelo custode È proprio uguale al mio angelo custode, anche sotto sotto, dove non si vede. Silvana, questa è una questione di lana caprina. Innanzitutto, gli angeli non hanno sesso. Si dice forse angelo custode femminile, custodo maschile, custode indeterminato. Ed è proprio grazie a questa indeterminatezza che voi femmine potete far parte della nostra banda, se no vi toccherebbe tutto il giorno giocare ai pentolini. No, Cesare, no! Pentolini l'orrore, pentolini la morte, ma non pentolini, appunto. E grazie a questa sostanziale indifferenza del sesso degli angeli voi potete far parte della nostra banda in libertà, fraternità, egalità. Si dice uguaglianza, Cesare, sì, ma poi non è più francese. Ah, è vero, Anna? La Anna aveva già steso la mano. Allora noi ci toglievamo la medaglietta dell'angelo custode, gliela davamo in mano, lei se le cacciava in bocca e poi pum, pum, ne sputava una a caso a ciascuno di noi. Adesso sì, che eravamo una vera banda. It, it, it, it. Ci sono in lanza, forza, tutti ai posti di manovra. Rinforzate le munizioni, pum, pum, pum, pum. Pronti? Parto io? Uno, due, tre, pronti, via! Signor Lanza, che piacere, bella macchina, il finestrino un po' appannato. Laura, è tanto che non ci si vede, sei cresciuta. Tu, signora Lanza, le è caduta la borsetta. Oh, sei un po' impolverata, la linea, Pepino? Andiamo, non mescolatevi, ti piacerebbe. Mi piacerebbe, avere la 600 Fiat familiare del ragionier Lanza. Mi piacerebbe avere le scarpe di pitone, la borsetta di coccodrillo e le bestie di visone pendule della signora Lanza. Ma più di tutto mi piacerebbe avere il bebè cicciobello in grandezza naturale di Laura Lanza. Certo, siamo una tipica famiglia del ceto medio anni 50 in piena ascesa economica. Ah sì? E allora perché quando venite in campagna mangiate il nostro pane, scorcate il nostro salame, vi bevete il nostro vino e non portate mai niente? Perché se i contadini non fossero almeno generosi ed ospitali, che gusto ci sarebbe a frequentarli? Il papà della Silvana fa il muratore. Il papà del Cesare fa l'orafo, l'Anna, che è l'unica che poteva offendersi, non ha sentito. Mio papà fa l'operaio. Tutto l'Aran dice, beato tuo papà, alle 5 ha finito di lavorare, 27 prende lo stipendio, un mese di vacanza, beato lui, beata me. Mia mamma invece fa la sarta. Tutto l'Aren dice, beata tua mamma, lavoranti, modelli, vestiti, è indipendente, altro che tieniti questi soldi e fateli bastare tutta la settimana. Beata lei, beata me. Sono nata nella città dell'oro, nell'età dell'oro, in pieno miracolo economico. Chi è più felice di me? Cesare! Cesare, presto, vai! Guarda! Senti, suonano le campane, devi andare in sacrestia da Don Perfetto a tirar fuori le statue e il baldacchino per la processione. Vai, Cesare, vai! Quando il Cesare andava in parrocchia, noi ragazze avevamo il nostro momento di beatitudine. Letto. Già letto. Già letto, tutti letti oggi. Questo ci era sfuggito. Letteratura illecita. Io ti voglio bene, come nella mia vita non è accaduto mai. Fotoromanzi. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore che adesso provo per te. Non saper leggere non era un problema. Il fotoromanzo è il primo esempio di comunicazione iconica totale. Io ti desidero. Sì, Massimo. Un desiderio nuovo che mi tormenta. Alfredo, mio marito. Talvolta mi domando. Sì. Com'è possibile? Non è possibile. Che mi debba addormentare. Sì. Mi debba risvegliare. Sì. Andare. Sì. E ritornare a avere te. Sì. Sempre davanti a me. Sì, sì. Negli occhi miei. Sì. Negli pensieri. Sì, sì, sì, non sì, distante dalla mia vita. Silvana, fammi il rossetto col succo delle more, fammi l'unghiolina con il petale. fiori dei gerani, Silvana, fammi l'ombretto col verde rame delle viti. La Silvana ci faceva la cosmesi naturale prima che fosse inventata. Silvana! Silvana, la Silvana dove è andata? La Silvana appena arrivava a casa suo papà, scappava senza dir niente a nessuno e ci lasciava così. E l'Anna? Anna! L'Anna era già andata nell'area a farci preparare la merenda. L'Arem si riunisce nel cortile di mia nonna e lì cuce, sferruzza, ricama, spisella, sfagiola, parla e sparla di storia e di spolitica. L'Arem dice che di storia e di spolitica non se ne intende, ma poi parla sempre tutto il tempo di storia e di spolitica. Gli anni 50 sono gli anni del miracolo economico. In 10 anni l'italiano, da povero che era, diventa ricco. E lo ha fatto lui sulla sua pelle, con le sue mani, ma non riesce a crederci. E così preferisce ascrivere la cosa al regno del sovrannaturale. Miracolo economico. In 10 anni l'homo agricolus si trasforma in homo industrialis. Che differenza c'è? Oh, l'homo agricolus era magro, basso, scuro, tarchiatello, mangia poco, lavora tanto, una fame nera. L'homo industrialis invece è uguale identico, solo che brilla una luce negli occhi, perché si sta muovendo, sta andando in città, a Milano aumenta la sua popolazione del 24%, a Torino aumenta la sua popolazione del 42%, ha lasciato la sua casa, se ce l'ha ancora una casa, perché è appena finita la guerra, qualcuno ha perso la casa, qualcuno ha perso le cose, qualcuno ha perso le persone, qualcuno ha perso tutto. Ma sta andando incontro al futuro e non c'è niente come la speranza di futuro che ti possa far brillare la luce negli occhi. Guarda i filmati, le fotografie di quegli anni, dappertutto macerie, distruzione, disastro, ma poi magari in primo piano due ragazzi guardano in macchina madre, cappottoni sformati, sono poveri, ma sono belli. Ma sta zitta, insignia, ma che poveri, sì, ma belli dove, quando? Ma cosa, dove ti vadi? Non ti ascolti il radiogiornale, tutti i giorni catastrofi naturali, inondazioni, esondazioni, terremoti, miniere che ne va su, fabbriche che ne salta su, morti malati, morti suicidati, morti ammazzati, morti... L'Arem dice che di storia e di politica non se ne intende, ma intanto è sempre lì a parlare di un'Italia in confusione, dove gliel'ha detto De Gasperi a Papa Pacelli, io coi fascista non faccio la lista. E perché? È l'ambasciatrice americana, cosa ci ha detto Valletta? Fuori i comunisti dalla fabbrica, oppure niente piano Marshall. Noi americani, voi italiani, non vi diamo una lira. Sì, negli anni in cui cresce il miracolo economico e il benessere, in Italia si sta male. Sì, si sta male perché gli americani ci minacciano, si sta male perché gli ungheresi si ribellano, si sta male perché i russi invadono l'Ungheria e chi è d'accordo e chi straccia le tessere, altro che boom economico, qui si litiga a destra e a sinistra, e americani e russi e rossi e neri, e democristiani e comunisti e loro e loro, e Bartoli e Coppi, Roma e Ova, sì, ma chi vi? Ma figurati, ti vuoi sempre avere ragione, chi? Ti vuoi avere ragione? Senta, di quei costi, allora se t'hanno raggi, fa di sutta! Mi, guarda, tra vista questa chi, Tra vista questa chi, adesso la trasferi, beh, questa chi, nessuna era costa, basta! Gli è in vergogna, ad cria adesso da danno a masnà, non avete vergogna di litigare così davanti alle bambine, Ti ha ragione, primina. Porre creature. Basta un biscottino. E dai che la Maria di Adria per farsi perdonare mi passa un biscottino. E tu vuoi l'amaretto e vai con l'amaretto Margherita specialità valenzana. E canarin. Ecco il canarino che poi da noi si chiama così, il savoiardo. Tu i pavesini, Rachele, fai che darmi tutto il pacchettino. E vai con pane, olio, sale, e pane, burro e zucchero, e pane, burro e marmellata, e pane, burro e acciughe, e pane, pomodoro, oro. È questo il giardino delle delizie. Felicità! Felice età. I secoli felici, quelli cui gli antichi diedero il nome di età dell'oro. E non perché in essi l'oro si ottenesse senza alcuna fatica, ma perché in quell'epoca benedetta tutti ignoravano queste due parole, mio e tuo. Tutte le cose erano comuni. Le robuste querce invitavano con generosità a raccogliere i loro frutti maturi e gustosi. Mangia, creatura, mangia! E le chiare fonti e i fiumi correnti offrivano in meravigliosa abbondanza dolci e limpide acque. Bevi, creatura, bevi! Tutto era pace allora, tutto amicizia, tutto concordia. Allà, faccio ora, te ci fai ciurì. Finito di mangiare, le mie odalische mi inventariano. Oh, si è mangiata tutte le frittelle. Empiata di gnocco, che t'avgheisi! Si è mangiato un piatto di gnocchi, dovevi vederlo! Alla grata fine la padella, lucido ha fatto diventare il fondo della padella. Venchini, anche bei prosciutti. Guarda chi te cosi, e che belle guanciottine, ma che panzottina, e a me piace che mi baciucchino, che mi baciocchino, che mi strafugnino, baciatemi, onoratemi. Viste da vicino, le loro facce sono più rugose, le vene delle mani sono più gonfie, i seni ubertosi, i fianchi generosi, i piedi accidentati, orografia benedetta, sono tutte bellissime ed eterne, siamo tutte bellissime ed eterne, sono bellissima ed eterna. Anna, ho scoperto una cosa, Anna, siamo tutte bellissime, Anna, dov'era Anna? L'Anna era già andata a procurarsi velo, messale e rosario per la processione. Forza! Le bambine davanti con i petali di rosa, avanti! Poi le signore! Davanti le donne in fila indiana per far sembrare la processione più lunga. Dietro i maschi, i contadini vestiti eleganti, i sì con la camicia stirata perfetta, la cravatta, gli orfi di Valenza con le novità, lo spezzato e le scarpe bicolori e mezzo chilo d'orologio d'oro al polso. Avanti col Cristo, avanti, che la processione si ingruma! Spuntano dagli orli le sottovesti, alle anziane per l'artrite, alle giovani perché se non la fai vedere in processione la sottoveste quando la devi far vedere. Sfila tutto il miracolo economico e sfila e canta. Le mogli dei comunisti devono cantare più forte per chiedere perdono per i loro mariti. E per i miseri implora perdono, per i deboli implora pietà. A me l'Anna ci fa ridere, a me l'Anna ci fa ridere, ma soprattutto ci fa ridere. Mira il tuo popolo, oh bella signore. Perché noi ci immaginiamo che il prossimo cespuglio nascosta dietro c'è la Madonna col flower di mio zio che mira sul suo popolo e ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Basta bambine, il riso abbonda sulla bocca degli sciocchi. Noi ci fanno ridere. Basta, in chiesa, Anna di là, Laura di là. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedictus fructus ventris, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Pater nostro che sei in cielo, santi, vincete il nome tuo. All'inizio è anche bello perché ti sembra di sapere il latino, però il problema arriva. Genitori, genitoque, lasset jubilation, salus honor virtus quoque. Quoque. Quoque. Perché si fa dire quoque? Secondo te, a me l'Anna ci fa ridere. A me l'Anna ci fa ridere tutto, ci fa ridere il prete Don Perfetto, si chiamava così, Don Perfetto Parandella. E ci fa ridere i chierichetti, ci fa ridere soprattutto il Cesare, vestito da chierichetto, che fra un po' verrà a chiedere la lemosina con il borsellino bastone. Io e Anna ci siamo preparate ogni sorta di genere merceologico da cacciare nel borsellino. So benissimo che le ragazze tentano di inficiare quello che è il momento topico, la mia discesa fra i fedeli per la questua. Ma io non me ne curo, perché la questua è un momento importante nella vita di un chierichetto. Ci sono delle regole precise, non è facile imparare, per esempio, no? Si deve passare con una certa eleganza, ecco. E anche quando ti guardano così con la faccia di bollito, tu aspetti. Devi aspettare con calma e poi anche se, guarda, non fanno neanche il gesto, allora tu con dignità, senza far vedere che da potresti anche offendere, niente, vai. Ecco, per esempio, qua, ecco, vedo la signora con lo sguardo di quelli che ci abbiamo già dato in sacrestia. Eh sì, è sempre il momento di dare ancora una qualcosina, insomma, ecco, vedi? Sorriso, ecco, noi ci conosciamo, anche se ci conosciamo mettiamo scontino lo stesso. Niente, ma guardate che non è facile, non è facile, ecco, per esempio qua vedo, non so, il tipo che viene, dice io non sono della parrocchia, vengo qua per interesse sociologico. Beh, allora anche se vieni con interesse sociologico, uniformati alle usanze della tribù, metti un sordino. Così, la vita del chierichetto è difficile, si potesse mia bella signora sedersi ogni tanto a niente. Non puoi, ecco, incroci uno sguardo e vai, così, ecco. Per esempio, adesso anche in chiesa fa spettacolo, Le telecamere sono entrate dappertutto proprio, ma mi pare. Ecco qua i giovani, ecco, qualche cosa mi ha tirato su. Non è esattamente quello che i poveri hanno bisogno, ci dà del kit e cazzo, ma perché no? È qui, ecco là i signori dicono, meno male ci siamo messi qua sopra in alto, vorrei mica che venga fino qua. Vado! È lì, oh, nelle retrovie, Cosa credevate voi? Niente, non fa, ecco. Bravo! Metti un po' lì, mollo l'osso. Guardate, non è facile. Vediamo un po' invece da questa parte se possiamo ottenere migliori risultati. Oh, guarda qua che stavo per far scoppiare un caso. Si trovano sempre delle signore con qualche caramellina. Vabbè, ecco qua un collega dice non si fermerà mica da me che mi conoscono. Non ti esime questo. Ecco, rubano. Ma ragazzi, cos'è? È veramente cambiato il costume, Si assiste a una ruberia anche del borsellino in parrocchia? Ma per favore, sono disastri. Comunque niente, tu non devi perderti. Qua il signore è spaventatissimo, dice, ma il teatro di coinvolgimento non era finito qualche anno fa? Vabbè, ecco là, professore, se volesse. Guarda, stavo, quelli che faccio, sono qua là, nelle mie parrucchiere, guarda, niente parrucchiere, meglio opera il bene, guarda. E insomma, vedete, non è più facile come una volta. Però, niente, si lascia la platea con dignità, e si risale per nulla spaventati dal fatto che le ragazze so già che sono lì preparate per farmi qualche scherzetto, ma io non mi preoccupo, bisogna lasciarle giocare le ragazze. Non sono per niente preoccupato all'idea di che cosa potranno combinarmi quelle due. Allora, oggi abbiamo preparato macerato di ortica all'urlo. Appena mette la mano dentro per tirare fuori la roba, urla come un'aquila. Oppure metti che lui rovesci il borsellino in sacrestia così. Dunque, abbiamo una caramella già ciucciata a metà, si attacca bene sia alla monetina che alla carta moneta. Poi, plat de resistance, una cacca di capra perfettamente sferica che la Anna si è procurata questa mattina nella stalla. L'abbiamo avvolta nella carta d'oro dei cioccolatini. Il tesoro non resiste? Se a me me l'hanno dato di qua, alla Anna gliel'hanno dato di là. Conviene assumere un'aria mistica. Salire in alto sulle scale, terzo non si può scalare le balle di paglia, ma se io non scalo le balle di paglia non vedo niente, perché sono bassa. Sulla cascina là, la Silvana fa le sante, le ha lette in un libro che ha rubato a sua zia suora. Ero una bellissima vergine. E già qui tutti i maschi si mettono a ridere, ma lei mi ferma. Con gli occhiacci, una vergine nobile e di rara bellezza. Il console di Sicilia si invaghì di me e tentò di sedurmi, ma non ci riuscì. Allora mi rapì e mi affidò a una mezzana esperta di filtri amorosi, ma neanche questo riuscì a smuovermi. Allora mi rapì ancora, mi fece portare in carcere e ordinò che mi si strappassero i seni con le tenaglie. E qui la Silvana si apriva la camicia, ma neppure questo riuscì a smuovermi. Allora fece spargere cocci e carboni ardenti e mi ci fece rotolare sopra nuda. E qui la Silvana rotolava sulle balle di paglia, ma neppure questo riuscì a smuovermi. Allora un grande terremoto scuotette la terra. E qui la Silvana cadeva giù dalle balle di paglia e la popolazione insorse in mia difesa. E qui i maschi andavano a tirarla su e a dire: quanto tempo ci avete messo? Era mezz'ora che dovevate entrare in scena. E allora il console ordinò che mi si riportasse in carcere, dove spirai pregando: Silvana, oh, ma Silvana, ma sei bravissima. Oh, dopo una seduta di sante della Silvana io devo fare un po' di movimento fisico. Andate pure a casa prima voi, io prendo la bicicletta e faccio il giro lungo. A me la Silvana mi sta venendo un caldo. Oh, ma un caldo. A me la Silvana mi stancava in un modo che avevo voglia di stancarmi di più. Ecco, la Silvana mi stancava in un modo che non avrei mai saputo se non avessi conosciuto la Silvana. La Silvana era un'annunciazione, la Silvana era un'anticipazione, la Silvana era un'anteprima, la Silvana era l'ouverture, la Silvana era un noviziato, era una vocazione, era un apprendistato, la Silvana era un preludio, un prologo, la Silvana era un presagio, era una promessa. La Silvana ti faceva sentire grande. Dopo una seduta con la Silvana avevi 100 braccia, 100 gambe, 100 mani. Altro che non si mettono le mani sotto le coperte. Ma perché non sanno cosa farci con le mani sotto le coperte? Se no ce le metterebbero tutti le mani sotto le coperte, nonna. Nonna, ho scoperto una cosa. Nonna, ho scoperto. Poi non gliel'ho detto, perché io dicevo tutto a mia nonna, tutto. Sempre ho avuto la massima confidenza, anche quando avevo trovato, non so, nella cacca. Avevo trovato i vermi e ho detto, nonna, ci devo darmi la cacca. Però quello no, non gliel'ho detto, perché subodoravo. Mani, lavate. Piedi, lavati. Faccia di sopra, lavata. Faccia di sotto, lavata. Va bene, allora vai a letto. E già, è la storia? Vai a letto, la storia adesso arriva. Oh. Dove eravamo rimasti? Allora, Carramona generò Canti generò Morosetti generò Melchiorre. Vincenzo Melchiorre. Era un bambino che a 13 anni lavorava già 10 ore al giorno in bottega e alla sera scuola di disegno lineare e ornato. Era nato nel 1845. A 17 anni Vincenzo Melchiorre è già bravo, bravissimo. Valenza gli sta stretta, vuole imparare di più. Viene a Torino, da Twirlpoggio, i miei importanti. E lì diventa molto amico di un altro ragazzotto, Luigi, da Milano. Un giorno, che tutti e due stanno lavorando a quattro mani al cofanetto di nozze della regina Margherita, Vincenzo, lasciami stare Luigi, concentriamoci. Vincenzo, quante volte te l'ho detto, Luigi, io devo concentrarmi per lavorare. Vincenzo, ti piacerebbe andare a vedere un po' di mondo, venire via da Torino? Ci verresti con me a Parigi, Vincenzo? Eh sì, a Parigi, ma sì, non scherzo. Guarda che io a Parigi ho uno zio, il Camillo Bertuzzi, disegna gioielli e magari è conosciuto. Se gli scrivo prende anche te. Allora cosa dici, gli scrivo? Parigi a quell'epoca non è un po' di mondo, è il mondo. Allora gli scrivo no. Sì, però non farmi morire, Parigi è il mondo a quell'epoca. Arriva una lettera del Camillo Bertuzzi. Vincenzo e Luigi insieme a Parigi. E a Parigi sono pranzi, feste. Il Camillo Bertuzzi li presenta, li introduce in inglese, in francese, più spesso in meneghino. E sono opere, e casinò, casini, di tutto. Ma Luigi, come fa tuo zio a mantenersi una vita così? Come fa? Il Camillo Bertuzzi, che è un uomone grande, grosso, con certe mani che solo a vederle ti tirano giù, in quelle mani ha le ali delle libellule. Tu gli dai dell'inchiostro di china e lui sa disegnare la tela dei ragni, la nebbia. Disegna la nebbia. Camillo Bertuzzi sa disegnare la neve e per ogni cristallo a Parigi fanno una fila. Ma siamo nel 1870, guerra franco-prussiana con i cannoni alle porte. Come si fa a disegnare quei cannoni che ti sparano dietro? Addio ragazzi, addio a Londra, a Londra! E il Camillo Bertuzzi parte e va a Londra. Addio Vincenzo, vado a Firenze! E Luigi va via a Firenze e Vincenzo rimane da solo, ma no. E con l'Angiolina, la sorella di Luigi, se non ci trovi un amore a Parigi. Tornano a Valenza dalla mamma di Vincenzo, mamma Piatta. E adesso, bambina, stai attenta, che attorno a questo tavolo di cucina si svolge una scena che cambierà la vita non di questi due ragazzi, ma di un'intera città per tutto il secolo successivo. Angiolina, Vincenzo, io ci ho pensato tutta la notte. Se la smettete di girare per il mondo e aprite bottega a Valenza, io vendo la vigna e vi regalo l'oro per cominciare. Ma mamma, la vigna? A quell'epoca la vigna non era la vigna, era la vigna. Vincenzo, tu occupati del tuo laboratorio. Al resto penseremo io e Angiolina. Se sei d'accordo, Vincenzo. Ma sì che Vincenzo è d'accordo. Vincenzo somiglia a uno di quei personaggi di Gabriel García Márquez in Cent'anni di solitudine, il colonnello Aureliano Mendia. Il colonnello ha percorso tutte le terre, ha combattuto tutte le guerre, ha amato tutte le donne. Però adesso che si è ritirato nel suo villaggio, non chiede di meglio che rimanere da solo nel suo laboratorio, a lavorare un po' d'oro per fabbricare certi meravigliosi pesciolini d'oro, gli spessesitos d'oro. Sono magnifici, uno diverso dall'altro, minuscoli, perfetti, gli spessesitos d'oro. Ma Aureliano ha poco oro e quando finisce non gli resta che prendere uno a uno i suoi pesciolini d'oro, gli spessesitos d'oro, e fonderli nel crogiolo per ricavare altra materia prima con cui ricominciare a costruire meravigliosi pesciolini d'oro, gli spessesitos d'oro. Perché per il colonnello non sono tanto importanti i pesciolini quanto l'arte di costruirli. E se hai capito questo, hai capito tutto. Hai capito perché Calamora generò Canti e Canti generò Morosetti e Morosetti generò Melchiorre. Una notte, amore mio. Mi guarda. Ma la cretina. Ti dico che mi guarda. E allora spostati, no? E anche se mi sposto, mi guarda. Già non mi piace stare a casa della scrivana e aspettarla per delle ore. La sua anticamera è tutta buia, c'è puzza di cera di pavimenti e c'è quello nella foto che mi guarda. Cesare, sai mica chi è? Certo, il papà della Silvana, no? Ma va là, il papà della Silvana, io lo conosco, è grande e grosso, sembra uno scimmione. Quello lì è il suo patrigno, il papà vero della Silvana è morto durante una rapina. Faceva il rapinatore. Ma va là, cretina, faceva carabiniere, se faceva il rapinatore mica lo incorniciavano nella fotografia. Ecco, il problema è la cornice, di fotografie nell'album ce n'è di tutti i tipi, quando sei neonato ci fanno la foto nudo sul copriletto, poi a scuola foto di scuola, poi foto di nozze, sposo, poi genitore, poi nonno, poi bisnonno, poi avo, trisavolo, antico antenato, e allora possono metterti la foto nella cornice, giovani e belli nella cornice da morti escluso, quello lì è giovane, bello e morto, ma va là. Ma Cesare, siccome non avevo mai conosciuto dei morti da vivi, io pensavo che si potesse morire soltanto se si era antichi, santi, che sono antichi anche loro, e vecchi, giovani e belli nella cornice, escluso, quello lì è giovane e bello e morto. Ma Cesare, ma pensa, se potessero morire, ma dai, allora vuol dire che non so, possono morire i nonni, e se possono morire i nonni, possono morire i genitori, ma dai, ma Cesare, se possono morire i genitori, possono morire i figli, e se possono morire i figli, arrivò la Silvana e per fortuna non riuscì a chiudere il cerchio. Silvana, si può sapere perché ci fai aspettare delle ore. Scusa Cesare, ma sai, dovevo ancora finire di allacciarmi il reggipetto. Oh, lavoro, io borro le femmine e quella fa la femmina super femmina. E io Cesare cosa c'entra? Tu sei mica femmina. Ah, e l'Anna? L'Anna era già andata a prendere le biciclette per andare a Valenza. 4 gelati da 20, prego. Felicità. Felicità è un gelato da 20, spatolato sopra il cono in epoca pre-pallottole. Gelato leccato, arrotando con circospezione la lingua attorno al cono, poi aspirare la sommità facendone un ricciolo perfetto, indi scandagliare il fondo del cono fino all'ultima lappata di crema. Ah, Laura, tu cosa fai da grande? E tu, Cesare? Non so. Orfo come mio padre, se no gelataio. E tu, Silvana, tu cosa fai da grande? Io sono già grande. Ah, Anna, Lana aveva doppiato una moneta da 20 per terra, forse sono di quel signore seduto sulla panchina, quel vecchietto. Ma se noi non ce ne facciamo accorgere, ce le pigliamo e poi ci compriamo un altro gelato da 20. Signore, sono sua questa 20 lire, Cesare. No, io l'avrei fatta meglio. Lei sa fare l'oro, l'oro non si fa, l'oro è. Questo lo dice sempre il papà del Cesare. Lei conosce il papà del Cesare, io conosco tutti a Valenza, fai una prova. E non so, conosce Morosetti, Orafo, grande imprenditore, e Canti, figura di passaggio, e Melchiorre pure, esciti la bocca bambina prima di pronunciare il nome di Vincenzo Melchiorre, il capostipite, il maestro, ha insegnato il mestiere a generazioni e generazioni di orafi, gioiellieri, incassatori, viaggiatori, pulitrici. È l'uomo che ha creato Valenza, città dell'oro. Veramente, signore, mia nonna la racconta in un altro modo. E comincia a raccontargli la storia di Valenza in linea femminile come la vendeva mia nonna. E lui a ridere, a dire che magari forse poteva essere anche andata così. Signore, sa mica poi però com'è finita, perché poi mia nonna prende un altro libro e... Non è finita, continua. A Valenza, 1925, gli orfi sono già 800, 200 laboratori, se la matematica non è un'opinione, quanti sono per laboratorio? 4. 4 è il numero perfetto, quanti siete voi? 1, 2, 3 e 4. In 4 si è agili, duttili, si asseconda, si cerca. 4. La grande crisi del 29, a Valenza gli fa un bofo. 5 anni come prima, più di prima. Ma nel 1933 la ditta Vincenzo Melchiorre C non c'è più, no? Non che fosse fallita. Storia recente quelle. No, no, aveva incrementato. Solo che in quegli anni l'Italia comincia a tingersi di nero, non è più questione di assecondare, qui si tratta di piegare la schiena, di mortificarsi. Allora Melchiorre apre la cassaporte e ci mette dentro i disegni del Camillo Bertuzzi, la nebbia filata. E poi l'oro e i quaderni degli operai con su scritto le pietre e quante ore ci sono voluti per costruirli, l'oro e le storie. E a chi domanda loro di piegare la testa risponde grazie, preferiremmo di no. Ci facciamo un'orzata, eh? Fuori le venti. Coi discorsi di Togliatti non si condisce la pasta asciutta. Così le persone intelligenti votano De Gasperi, che ha ottenuto dagli americani la farina per gli spaghetti e anche il sugo per condirli. Gradisca! Si può sapere perché tieni ancora queste schifezze dietro al bancone? Perché così quelli come te si incazzano e i democristiani si vergognano. 4 orzate e un bicchiere di vino. Seduti voi. Laura, lo sapevi che a Valenza di democristiani non ce n'è più? Perché siamo tutti comunisti? Oh, non è possibile. Come fate a fare i cortei contro i ricchi? Non servono. Siamo tutti ricchi e comunisti. Ah, ma non è possibile. Perché? È perché i poveri devono fare i comunisti e i ricchi gli sporchi capitalisti. Guarda che qui a Valenza noi non siamo sporchi. Fermi, ragazzi, bevete l'orzate, non dite baggianate, non è questione di comunisti, democristiani, ricchi, poveri, è sempre questione di chi ha potere e chi non ne ha. Arrivederci. E tu? Io niente, io sono anarchico. Arrivederci. Vai a casa? Non ne ho di casa io. Ho avuto casa in tutta Europa io, ma adesso, grazie, preferisco il ricovero. Non voglio dipendere da nessuno io, grazie. Io non voglio farmi comandare da nessuno, grazie. grazie. Preferisco il ricovero. L'ospedalino, i poveri vecchi. Ma gli adalischi, se solo sentono questa parola, gli viene la caghetta. Una volta, tanto tempo fa, andavano ai poveri vecchi soltanto i poveri, poveri, poveri, poveri. Ma adesso, che sono tutti molto ricchi e hanno tanto da fare, si è saputo di donne ricche, ricche, ricche, ricche, con figli che sono finite all'ospedalino. Laura Cisborghi, che devo vedere il film, io adoro vedere il cinema incominciato. Ma dai, lo vedi domani da Don Perfetto, brava, così quello taglia tutto, è vero. Don Perfetto, il cinema covo di comunisti, lo tagliava come in tutta Italia. Gonne, baci, scollature. Rocco e i suoi fratelli oscurato di 15 minuti. Antonioni e Bolognini tagliati. La dolce vita di Fellini di fondo il vizio. Sì, vabbè, però la censura se la prendeva anche con delle pellicole di serie B, come Suor Letizia di Camerini, un film sdolcinato su una monaca interpretata da Anna Magnani, che diventa molto amica di un bambino, bambino abbandonato, figlio di concubini. Oh, i concubini abbandonano i bambini. Un giorno questi due sono lì che corrono, giocano, giocano a prendersi, corrono, corrono, lei corre avanti, corre, corre, i bambini corrono dietro, la mamma la raggiunge, si attacca al velo. Ma sei una donna. Nel laboratorio orafo del papà del Cesare. E nel laboratorio orafo del papà del Cesare, banchetti, stocchi, trapani, seghetti, tenaglioli, mazzuoli, crogiuoli, lime, lime tonde, lime quadre, lime a foglia di salvia, non servono per levarsi le unghie, Silvana, quelle lime. Nel laboratorio orafo del papà del Cesare tutto nero. Ma come? Ma come? Se loro piace a tutti proprio perché luccica. L'uomo, fin dall'antichità, è stato attratto dall'oro, stregato perché in quel metallo ci vede il sole. E dove c'è il sole c'è calore, dove c'è calore c'è vita, c'è carne, c'è sangue, c'è fertilità. E dove c'è fertilità c'è ricchezza, c'è potere. E dove c'è potere c'è leggenda, c'è eternità, c'è mistero, avventura, libertà, c'è luce, e qui è tutto nero. I gioielli diventeranno lucidi solo molto tempo dopo, sotto le mani delle pulitrici nere. Beat, beat, beat, beat. Mamma Lanza è venuta a comprarsi un collier per l'anniversario di matrimonio, entra nel laboratorio. Papà Lanza è venuto a pagare il collier per mamma Lanza, entra nel laboratorio. Laura Lanza è rimasta fuori a guardare la macchina. Usciamo tutti dal laboratorio. Signorina, signorina, per favore, la potrebbe smettere di consumare il marciapiedi? Le spiace lasciare libero, non ostruire il passaggio, perché? Cosa sei qui tu, una specie di portiere? Per sua norma e regola, questo laboratorio orafo appartiene interamente a mio padre. Sì, allora io consiglierei tuo padre di provare un po' più di rispetto per i suoi clienti. Con tutto il rispetto, signorina, noi di clienti come lei ci puliamo il culo. Noi lavoriamo con Tiffany, Cartier, sultani e principesse. Sì, e io sono la regina d'Inghilterra. Non sei la regina d'Inghilterra, ma sei brutta e ciospa come lei. Ma ti sei visto? Ma ti sei visto, scarafo balbuziente? Io non sono scarafo balbuziente. Io ho un leggero rotacismo di origine francese. Sì? E allora perché non provi a dire 33 trentini entrarono a Trento con il treno, tutti e 33 trotterellando? E allora? 33 trentini entrarono a Trento con il treno. 33 trentini entrarono a Trento. Piano, Cesare, prova piano. 33 sono capace. Cesare, Cesare, Cesare. Just in time. Che cosa fa a terra il nostro piccolo Kaiser? Andy Anversa, quello che vende le pietre al papà del Cesare. Perché piange il nostro piccolo Czar. Tuo padre è molto occupato. Vogliamo passare un po' di tempo a giocare al nostro gioco con la tua fiera amica? E chi è questo? Parla peggio di un terrone. Guardi che lei non è mia amica, pazienza. Cesare, giochiamo? Questo gioco è molto antico. Viene da India. Fascino di gioco viene da pietre. Ora io poserò le pietre su questo vassoio. Voi potete guardare, toccare, contare tutto il tempo che volete. Poi coprirò il vassoio e voi dovrete dire cosa erano e quante erano. Allora, pazienza, Cesare. Prima tua fiera amica. Allora, ci sono 13 pietre, 5 azzurre, 3 verdi, 2 rosse, una gialla trasparente, una bianca tipo perla e una tipo anello di fidanzamento. Cesare? Allora, innanzitutto le pietre non sono 13 ma sono 15. Cominciamo dalle 5 pietre azzurre, sono 2 zaffiere di silo, un turchese del Turkestan con venature nere, 2 acquamarine, una tagliata a goccia, una taglio quadrato. Le pietre verdi sono 3 smeraldi, 2 più piccoli, adatti a un paio di orecchini, uno tagliato a baguette con un anello. Le pietre rosse, un rubino per mano, un granato di Boemia. La pietra gialla trasparente è un topazio, provenienza russa, alta caratura, pietra importante. La pietra bianca tipo perla è un pendente perfettamente sferico di opale con riflessi arcobaleno, provenienza Australia. I diamanti sono 3, tutti di prima acqua, i 2 piccoli e uno più grande adatto a un solitario, l'anello di fidanzamento. Non vale. Lui conosce il nome delle pietre, perché non possiamo provare con degli oggetti di uso comune, scelti a caso? Di sotto ci sono un soldatino dell'armata napoleonica a cavallo senza spada, ma naturalmente col cavallo. Poi, 4 figurine, 2 di calciatore, 2 del formaggino mio che se le muovi cambiano figura, 2 caramelle su Kai, 1 caramella voluto buono, un fazzolettino femmina 20x20 con 3 paperette gialle in campo verde, una striscia di linguine a centimetro 20 già mangiata da una porta brutti bastardi. Poi ci sono 2 fermocodini da femmina con le palline, Cesare l'ha stracciata, Cesare l'ha distrutta, Cesare l'ha aperta, l'ha ricucita, me l'ha suturata e poi l'ha fatto saltare i punti. Cesare l'ha omogeneizzata, Cesare ha vinto, Cesare ha vinto, abbiamo vinto, abbiamo vinto, incenso a Cesare, abbiamo vinto, venceremo, anzi abbiamo già vinto, aleo, aleo, abbiamo vinto, io ho 3 amici, ho la vittoria, ho l'eternità, ho la ricchezza, ho la bellezza, cosa mi manca? La bici Graziella, tanto pedale, poco chilometro, cielo! I fagioli delle zie, cielo! Un barattolo vecchio di tonno, di conserva di pomodoro, cielo! Lavanda, cielo! Pavane, cielo! Fiordalisi, cielo! Lucciole, cielo! Rane, cucine americane! Cosa mi manca? Vado a scuola, no! Colori con Giotto, pecora, o di Giotto, cimabue, cielo. Pennino, cielo, detta penne, multistrato, cielo. L'asilo ero riuscita a sfangarlo perché mi ero fatta venire. La pertosse, la quarta malattia, la rosolia, tutto uno sull'altro. Mi costi più all'asilo che a casa, ero rimasta a casa, ma la scuola dell'obbligo si chiama dell'obbligo perché si è obbligati ad andarci. Quest'anno hai 6 anni, vai a scuola, sei contenta? Sì! Ho la morte nel cuore. Addio, saluta tutti. Saluta le zie, addio. Saluta le nonne, addio. Mi ri- rivedrete fra 9 mesi. Addio. Addio. Monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo. Cime ineguali note a chi è cresciuto fra voi e impresse nella sua mente non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari. Addio torrenti di cui riconosce lo scroscio come suono di voci domestiche. Addio ville sparse biancheggianti sul pendio come branchi di pecore pascenti. Addio. Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto fra voi, se ne allontana. Io ti conosco molto bene. No, Laura Lanza, compagna di banco. Non sporcarmi il banco con l'inchiostro, resta nella tua metà se sconfini ti ammazzo. Oh, mi sembrò di essere precipitata all'inferno. Da oggi, bambina, ti sia sottratto il grande mantello del tempo. Da oggi il tempo fia tagliato in due. Tempo della scuola, tempo delle vacanze. Da oggi lo spazio sia tagliato in due. La città e la campagna, i valori, buoni voti, cattivi voti, il bene e il male. Da oggi, bambina, conoscerai l'ansia del lunedì. Venga ora alla lavagna. La rabbia del martedì, 4 occhi ciccia fritta, 4 occhi ciccia fritta, la nausea del mercoledì. È inutile che ti fai venire da vomitare, Laura, a scuola ci vai lo stesso. La vendetta del giovedì, beccati questo, questo, questo, la punizione del venerdì. Scrivi 100 volte, non si buca Laura Lanza col pendino. La risoluzione del sabato, le distruggerò a colpi di buoni voti, a colpi di pagelle le distruggerò, dovranno mangiare rabbia al posto del cicles. Ciuica, si dice ciuica, e io dico cicles, cicca, tiramolla. Chi te le ha insegnate queste stupidaggini, quello scarafo balbuziente del tuo amico? Non è uno scarafo balbuziente, dillo ancora una volta e ti do una sberla. Faccio cadere anche gli altri denti. Curino, non disturbare Laura Lanza. Chi? Io? Io disturbo lei? Oh, ma che tu possa incenerirti, ma è possibile? Ma è possibile? Ma che io debba soffrire così per colpa di quel brutto muso? Ma mentre tutta l'Italia va, avanza verso il welfare state, la civiltà del benessere, solo io devo cadere in questo malessere. Meno male che il sabato e la domenica mio papà e mia mamma mi portano in campagna, così posso ritrovare un po' di pace. Oh. Silvana? Silvana, verità, verità, verità. Secondo te più bella, la Lore o la Lollo? Beh, secondo me è più bella la Lore. No, secondo me è più bella la Lollo. Secondo me sono brutte tutte e due. Ma dai, Silvana, dai, senti, verità, verità, verità. Allora, secondo te è più bella Grace Kelly o le gemelle Kessler? Beh, secondo me è più bella Grace Kelly, poi lei è principessa. Però le Kessler sono due, disvalide. Già, ci avevo pensato. Silvana, io, verità, verità, verità. Io sono bella. Sì, come il culo della padella. Anna, allora Anna parla. Sì, però parla per dire certe cose, ma lo so che scherza. Anna, la Anna è già andata a guardare le fotografie che la Lina, non faccio per dire, ci avrebbe portato di via un momento. Oh, non faccio per dire, io ho portato le fotografie della mia nipotina, bellissime, ce le porta tutte le domeniche. Oh, non faccio per dire, l'hanno fatta reginetta della scuola. Mi si intervallo. Effettivamente il soggetto è notevole, una lolita di 6 anni, la mia età, vestita come la bambola sul copriletto di mia nonna, con gli stessi occhi sgranati. Scarpette di vernice nere col cinghino da una parte e il bottoncino. Le mie sono ortopediche perché poi effettivamente l'anchilosi dell'anca mi è venuta. Capelli lunghi riferisce alla svedese miei corti e ricci. Vestitino a nido d'ape e vitino di vespa. Io a forza di mangia, creatura mangia, più che una vespa sono un calabrone. Sì, però faccio ridere quando racconto, e sono anche simpatica, e vado bene a scuola, e qualcuno mi ha anche detto che sono intelligente, mentre questa qua, guardala, sembra avere il carattere di una iena, l'indole di una serpe e l'intelligenza di una guilla, però ha la faccia di una lapola. Ah, Laura, ma non preoccuparti, ma anche tu sai, non faccio per dire, sei un tipo. L'ha detto? Ha detto quella parola? No, non l'ha detto, era un po' distratta, no? Non ha detto quella parola, perché mai ci fu parola più subdola. Lemma più idiota, vocabolo più menzognero, aggettivo più ipocrita. Tipo cosa? Tipo chi? Tipo dove? Tipo qua? Tipo ma ti sei vista? Ma ti sei vista? Ti sei vista tu, vecchia bavosa? Tu e tutte le tue amiche, Lorem, le odalische, ma che odalische, ma guardale! Un sabba di streghe, una più brutta dell'altra! Io ho sempre pensato che erano bellissime. È finita un'epoca, quella in cui tutti si amavano per quello che erano. Adesso, per riguadagnare il rispetto di me, dovrò sgobbare. Noi tipi dobbiamo stracciarle ai punti. Quante medaglie del sabato hai già preso, bastarda? Sa benissimo che io non ho mai preso la medaglia del sabato di bambina più buona della settimana, ma non per il profitto dove non mi batte nessuno, ma per la condotta. Scrivi 100 volte e non si buca la ranza col pennino. Io ho già preso 6 medaglie del sabato. Che tu possa giocare con una bomba. C'è ancora, ma di bombe, ce n'è. Per la finita la guerra c'è bombe dappertutto, nei fossi, nei campi, ce n'è bombe. Già, a scuola ci ha messo un manifesto. Bambino, non toccare la bomba che diventi mutilatino, Ma dopo io ci devo dare i soldi nello scatolino. Arrivano un sacco di scatolini, noi mettiamo il soldino, ma... Oh! Io, i soldi nel salvadanaio della cassa del risparmio per la giornata del risparmio, non li metto. Io non faccio nessun risparmio. Io se ho bisogno di qualcosa, chiedo a mia mamma e mio papà e loro se possono me lo danno. Le bambine che non hanno il papà hanno la paghetta. Mio padre o mia madre, le bambine che non hanno il papà hanno il babbo e il padre. Mio padre o mia madre, se sparecchio in tavola o faccio le commissioni, mi aumentano la paghetta. Io lo faccio perché li amo, stronza. Non è possibile, ma non è possibile. Laura Lanza in campagna, Laura Lanza in città, Laura Lanza a scuola, Laura Lanza la prima comunione. Venite, fate che mi avete allevata, nutrita, amata, venite a sollevarmi dalla polvere in cui mi avete cacciata pronunciando quella parola tipo venite, vecchie odalische, che non mi siete mai mancate nel momento del bisogno, venite a sollevarmi dal girone infernale in cui sono cadute quelle che come me fanno tipo venite, venite. Se non siete state capaci di farmi bella come Biancaneve, cucitemi almeno il vestito di Cenerentola. Thank you. discusso in un momento che dovrebbe rappresentare il trionfo dello spirito sulla vanità, cioè invece del bellissimo vestito da principessa, cucito gratis da mia mamma con gli avanzi del suo abito di nozze, il costosissimo abito venduto dalle monache della parrocchia. È un saio di mistolana eterica col cordone e il velo. Non è bianco, è bello. Come credete che fosse vestita la Lolita, faccia di bambola, cuore da villa? Da principessa. Al ricevimento ci siedono vicine e ci fotografano insieme. Dalla testa alle zampe, corro. Si prende il coniglio, corro. lo si sgozzi con un colpo secco, corro, trattenendolo per le zampe, corro, perché il sangue non schizzi d'attorno, corro, raccolgo il sangue in una bacinella, corro, lo si incida nella pelle, corro, per scuoiarlo dalla testa alla coda, corro, corro, mi viene da vomitare, corro, inciampo nelle radici, corro, cado sopra i sassi, corro, mi fanno male le ginocchia, corro, corro, mi viene da vomitare, corro, inciampo nelle radici, corro, cado sopra i sassi, corro, mi sanguinano le ginocchia, corro, finalmente c'è la villa, corro, non si entra nella villa, non si uccidono i conigli. Ecco, ecco, chiudo. La villa abbandonata. Due piani di corpo centrale, i padiglioni deserti, le terrazze, le torrette, le scuderie. I cavalli non ci sono più, ma io li sento. Se ascolti li senti nitrire. Ribò, ribò, ribò, ribò, ribò, ribò vince, ribò vince sempre. Poi le serre, le voliere, io volo. Ci sono delle volte che io chiudo gli occhi e volo. Tu se stai attento mi vedi. Mi vedi volare e poi c'è la chiesa con il suo cimitero e erbe infestanti e una conca di pietra smangiata e poi muschi e licheni. Ci sono sempre muschi e licheni nei posti abbandonati e poi sterpi, lucertole, serpi e un lago di limo. Scendere nella villa è proibito, ma non è proibito veramente. Basta non farsi scoprire, basta che nessuno se ne accorga. Invece scendere al laghetto è proibito veramente. Lo impone la regola non scritta che vieta ai bambini le rocce, le cisterne e i pozzi. Le acque sono gonfie, livide di cadaveri, di bambini morti e annegati. La chiesa e il cimitero sono pieni di piccole tombe di bambini morti e annegati, bambini morti in fasce, figli di pastori transumanti d'Abruzzo, bambini morti lontani da casa, tombe senza fiori, si concedono fiori solo il giorno dei morti, quando noi rubiamo mazzetti dalle altre tombe, quelle onorate, onora il padre e la madre, chi onorerà i bambini? In paese tutti dormono, composti sui divani, all'ombra delle persiane e del DDT. Le mosche danno un ultimo ronzio isterico e poi cadono con un colpo secco sulle incerate delle tavole, su plastiche di seggiole allineate agli angoli di sale da pranzo mai usate, sulle foto incorniciate dei morti. Onora il padre e la madre, chi onorerà i bambini? Il tempo è fermo ed eterno. Le api ronzano forte, la terra e il cuore ce li ho nelle orecchie. E se proprio stasera io dovessi rimanere chiusa qui, nella villa abbandonata finché non arriveranno i pipistrelli e i gufi, fino a quando non usciranno dalle tane le volpi e i tassi, fino a quando i topi e i tarli non prenderanno coraggio e verranno a rodere col buio fino all'ultimo brandello di te, tarli. Capace che se sto qui per anni, anni, anni, anni, mi entrano in bocca dei semi. Le salve dei secoli che foresta. È finita un'epoca, quella in cui tutti mi amavano per quello che ero. Ho perduto la ricchezza, ho perduto l'eternità e quello che è peggio è che ho perduto la bellezza. Rivoglio l'anno che è passato. Voglio tornare ad essere l'araba felice che ero. Rivoglio il mio magnifico harem, le mie vecchie odalische. Sto crescendo perdita d'occhio. Non ho ancora pelle abbastanza. Ma diciamoci la verità, che età dell'oro di merda è l'infanzia. Ma che cazzo hai, sei di nonna? Mi hai spaventato, brava, così impari. Vieni fuori di lì. Ma asciugati, ma guarda. Asciugati, ma cosa fai lì dentro? Ma guarda, ma senti. Ma senti, di giovani, senti. E me povero, e me misero. E come sono sfortunata, guarda. Io non so fare niente. Come sono infelice. Beh, sempre pronti a lamentarsi, mettiti quelle scarpe. Ma cosa credevi di fare? Che cosa credi? Che facendo così ti assicuri la simpatia del mondo. Stai attenta, bambina. Stai attenta. Guarda che il mondo perdona qualsiasi cosa, ma non le disgrazie. Attenta, bambina. Solo la fortuna è sfortunata. Detto questo, è inutile lamentarsi o pigolare. Resisti, bambina, resisti. Vieni qui, ascolta. Può darsi che dall'ingiustizia possa nascere il fuoco e dall'avarizia l'economia. Può darsi che ci sia rivincita alle guerre inutili, al passato incatenato e sanguinante. Può darsi che dalla collera possa nascere l'entusiasmo, e dalla gola l'appetito, e dall'invidia l'emulazione, e dalla pigrizia le fantasie dei poeti e dei saggi. E quanto alla lussuria, bambina, può darsi che da 100 mani e 100 braccia e 100 braccieri ardenti possa nascere una bella donna che si chiama amore. Resisti, bambina, resisti, anche quando ti sembrerà che tutto sia perduto, che non ci sia più niente da fare, tu resisti, bambina, resisti e vedrai. More than this.